BRC sta andando molto bene, abbiamo avuto una crescita importante quest'anno, oltre il 50% di crescita di fatturato rispetto al 2007. Che in un anno in cui il comparto motori perde addirittura percentuali a due cifre, direi che non è male. A che cosa è dovuto questo fatturato? Prima tecnicamente, poi secondo lei come molla per il pubblico? Ma tecnicamente perché non siamo cresciuti a livello tecnico e tecnologico per quanto riguarda i componenti e le prestazioni che noi possiamo in questo momento dare all'autovettura. Quindi da una parte l'aspetto tecnologico e tecnico, dall'altra l'aspetto invece economico. E non dimentichiamo un terzo aspetto importante che è l'ecologia. Stanno cercando un po' tutti di risolvere i problemi ecologici che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni nelle nostre città. Ecco, il metano, ma soprattutto in Italia il GPL, perché poi anche più capillarmente diffuso e distribuito, sembrano rispondere proprio a queste due parole, consumi ed emissioni. Le chiedo, secondo lei è un trend che proseguirà? Secondo me sì, perché oggi non si può neanche più parlare di carburanti alternativi. Sono carburanti veri e propri, quindi alla fine secondo me sì, perché sono più ecologici, non solo in quantità di emissioni, ma anche in qualità di componenti emessi nell'atmosfera. Senta, noi sappiamo che il GPL costa circa, detto a spanne, la metà della benzina, ora un pochino di più perché è scesa di più la benzina. Le chiedo questo, consuma di più il motore GPL, però le prestazioni arrivano al 95, 96, 98%, ci siamo ormai, un motore performa uguale a quello benzina. Questo incremento di consumo, che quattro ruote ha stimato dal 20 al 30%, può essere diminuito secondo lei in futuro? Direi che non può essere diminuito perché è intrinseco nel carburante, nel peso specifico, nella massa volumica e nelle calorie che alla fine sono intrinseche del combustibile, quindi è un altro combustibile, ha un altro tipo di se vogliamo, di consumo, no? Quindi consumo specifico sto parlando. Noi come BRC stiamo collaborando in partnership molte volte in delayed OEM e OEM con Chevrolet, con Citroën, con Ford, con Hyundai, con Subaru, ma adesso non vorrei dimenticarne, ma con molte case costruttrici che hanno visto nel prodotto BRC e nella nostra organizzazione un modo per entrare in questo segmento. Le auto con impianto GPL montato aftermarket possono o non possono parcheggiare negli autosilo delle nostre città? Perché quasi ovunque ci sono ancora i divieti, così lo chiariamo una volta per tutte. Sì, direi questo è una cosa da chiarire molto bene. La normativa dice che le auto GPL di qualsiasi tipo siano installate dopo 2003, che seguono la normativa Euro 6701 dopo il 2003, possono essere parcheggiate all'interno dei silos e fino al primo piano interrato, mentre invece non c'è restrizione per quanto riguarda il metano.